stanchi e arrabbiati di fronte al fallimento delle istituzioni italiane e europee, preoccupati e tristi nel guardare ciò che sta avvenendo nel mondo. E mentre ci auspichiamo, personalmente io mi auspico una rivoluzione che cambi le sorti della società e di tutti noi, non ci resta che il cinema e la musica, che ci arriva diritta al cuore e nutre le nostre menti attraverso anche questa radio, Radio Onda Rossa. La frequenza la conoscete, 87.9, per ascoltarci in streaming www.ondarossa.info, per chiamarci 06 49 1750. E quindi un saluto a tutti e a tutte gli ascoltatori della radio, e un saluto particolare a tutte e a tutti coloro che sono privati della loro libertà. Tracce di cinema rincomincia dopo la pausa estiva lunghissima, e ce la siamo presa comoda, come si suol dire, ma rincomincia alla grande con un film straordinario, con una, che ha una straordinaria colonna sonora. L'autore, il regista è un italo-americano molto famoso, alcuni dei suoi titoli sono Taxi Driver, Toro Scatenato, Alice non abita più qui, Casino, Kundun. Stiamo parlando naturalmente di Martin Scorsese, e il film di oggi è Goodfellas, Quei bravi ragazzi. L'abbiamo scelto perché è uno dei suoi migliori lavori. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. So open your arms and you'll open the door. Tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up. Abbiamo ascoltato un brano di Tony Bennett, Rags to Riches. Tony Bennett è un grande cantante degli anni 50, Frank Sinatra sosteneva che era addirittura la voce più bella di quel periodo, ha ispirato tantissimi cantanti, è nato a Queens, New York, di origini italiane, infatti il suo nome originale è Anthony Dominic Benedetto. Interessante che lui cercò di suonare anche poi negli anni successivi, ma non sopportava proprio l'avvento del rock and roll, proprio lo odiava. se ricordo bene, duetta nel documentario da oggi, da martedì nelle sale, su Amy Winehouse, duetta proprio con lei nel documentario. Sì, duetta con lei, e lei era nel documentario che ieri ho visto, bellissimo, che vi consiglio di andare a vedere. Era proprio uno dei suoi più grandi idoli, quindi insomma c'è questa registrazione emozionante in cui lei è emozionatissima e duetta con lui, che ha duettato con grandissimi personaggi del mondo della musica: Rita Franklin, Lady Gaga, Paul McCartney, Barbara Streisand, Stevie Wonder, Judy Garland, Michael Bublé, Elton John, Elvis Costello, Celine Dion e molti molti altri. Baro, baro, baro, baro, baro, baro. Abbiamo ascoltato un altro brano oldie della colonna sonora di Quei Bravi Ragazzi. Questi erano The Moonglows con il brano Sincerely. Moonglows sono un gruppo musicale e vocale degli Stati Uniti, composto da 5 elementi. Hanno fatto rhythm and blues, doo-wop. Loro hanno inventato le armonie di sottofondo, un modo di fare l'armonia di sottofondo particolare che è proprio caratteristico e poi ha ispirato tanti altri musicisti dopo. Questo film del 1990 di Martin Scorsese è uno dei migliori gangster movie di sempre. È straordinaria la direzione registica con cui Scorsese ricostruisce perfettamente, con quasi una precisione documentaristica, gli eventi che si susseguono potenti, non soltanto grazie ai pezzi della colonna sonora che è straordinaria, ma anche grazie alle voci fuori campo, agli spari. Con questa pellicola diciamo che Scorsese ci mette di fronte a un quadro chiarissimo di una storia legata alla realtà, perché è la storia di un criminale che è realmente esistito, che diventa finzione cinematografica, ma ci dice che la mafia è reale, i privilegi e le prepotenze sono reali, il carcere è reale e la naturalezza con cui si perpetrano gli omicidi è narrata attraverso la finzione cinematografica, che ci dà la consapevolezza che la realtà spesso supera la fantasia. Congratulazioni, il tuo regalo di laurea. Regalo? Ma perché? Mi hanno beccato. Capita a tutti, ma sei stato bravo, non hai parlato e quelli non hanno niente in mano. Io credevo che ti arrabbiavi. Io non sono arrabbiato con te, io sono fiero di te. Hai preso il primo arresto da uomo e hai imparato due grandi cose della vita. Qua? Guardami, non tradire gli amici e tieni sempre il becco chiuso. Boom, boom, boom. Take it slow. Well, naughty, y'all can call me Speedo, but my real name is Mister. Naughty, y'all can call me Speedo, but my real name is Mister. Speedo, he don't ever take it slow. Well, naughty, y'all can call me Speedo, but my real name is Mister. Un altro gruppo newyorkese degli anni 50 erano The Cadillacs con il brano Speedo. E Martin Scorsese per questa colonna sonora utilizza molti gruppi degli anni 50 all'inizio e poi invece proprio ora il film, mentre va avanti cronologicamente, la musica cambia ovviamente. Poi ci stanno i Rolling Stones e tanti altri grandi musicisti che rendono questa colonna sonora meravigliosa, però anche in qualche modo ironica rispetto alle scene del film. C'è sempre come un contrasto. Addirittura c'è anche un pezzo di Mina e il film si conclude con My Way, interpretata da Sid Vicious, quindi insomma si è proprio divertito Scorsese. E questa era Give Me Shelter, del brano di apertura del disco del 69, Let It Bleed. Ovviamente stiamo parlando dei Rolling Stones. E ho notato che nel brano canta anche una voce femminile che accompagna Mick Jagger, ed è Mary Clayton, una cantante soprano. Devo dire che mi piace molto come l'effetto di Give Me Shelter. Ricordiamo una cover dei Muddy Puddle of Mud. Puddle of Mud, giusto. Invece, parlando di nuovo del film, raccontiamo la trama. Siamo nel 1955, il protagonista della vicenda è un giovane italo-irlandese, Harry Hill, fortemente impressionato dalla mitologia quotidiana dei malavitosi: il potere, i soldi, la bella vita, le donne, il prestigio costruito grazie alla violenza e alla sopraffazione giocano nella sua mente un ruolo fondamentale e devastante, così da farlo diventare un uomo d'onore, cosiddetto uomo d'onore, e inizia il suo percorso criminale che lo porterà ad avere un discreto grado nella scala gerarchica della sua cosca. Tutto crollerà però rovinosamente nel 1980, mentre Harry cerca di organizzare un affare di droga con i suoi collaboratori a Pittsburgh. I poliziotti lo arrestano e finisce in miseria dopo che sua moglie Karen butta la droga che lui teneva, diciamo, come ancora di salvezza se avesse avuto qualche problema. Non avendo più un soldo, capisce di non avere più via di scampo e, braccato dall'FBI, viene incastrato e depone in un processo contro i suoi vecchi amici. Concluso il processo e condannati i componenti della banda, Harry deve cambiare città e vita, protetto dall'FBI perché è minacciato dalla vendetta dei suoi ex compagni rimasti in libertà. Behind the Sea di Bobby Darin, nome d'arte di Walden Robert Casotto, un altro italo-americano newyorkese che fece una grande attività musicale negli anni 50 e 60. ebbe una cattiva salute già dall'infanzia a causa di una febbre reumatica che ebbe a 8 anni. La sua musica spaziava dal swing al jazz al country e fece anche del pop, morto molto giovane nel 73 a 37 anni. E questa canzone ha il titolo della versione in lingua il titolo della versione in lingua inglese della canzone La Mer, composta nel 43 da Charles Trenet e Leo Chauliac durante un viaggio in treno fra Narbona e Carcassone. È stata incisa da Trenet e lanciata sul mercato discografico internazionale nel 1946 e secondo gli storici occorsero a Trenet e Chauliac soltanto una ventina di minuti per comporre quello che era destinato a diventare un successo mondiale della musica leggera. È stato usato in tantissime pellicole, da Austin Power a Black Rain, French Kiss a Lifeless Ordinary e molte altre, anche film TV. Abbiamo ascoltato il brano della Lady Soul, ovvero di Aretha Franklin, il brano si chiama Baby I Love You. Regina del sole, voce dell'anima, considerata in assoluto la massima cantante soul esistente, nel 1985 il governo, forse non tutti sanno, il governo del suo stato dichiarò a Aretha una delle risorse naturali del Michigan e io la dichiarerei anche una, un patrimonio dell'umanità. E con la Franklin arriva anche il nostro ospite di questo nuovo ciclo di Tracce di Cinema, Roberto Silvestri. Ben ritrovato, Roberto. Ciao, ciao, buonasera. Certo, mi dispiace interrompere questa colonna sonora stupenda, 43 canzoni, una più bella dell'altra, sì, bisognerebbe sì. Farle sentire tutte. Sì, tra l'altro stavamo notando che il film, attraversando vari decenni della storia criminale degli Stati Uniti dal punto di vista della comunità italoamericana, ha una colonna sonora che spazia appunto dal rock and roll, dai crooner degli anni 50 fino a Aretha Franklin, passando per Aretha Franklin arriva fino ai Rolling Stones e altri. Insomma, è molto ricca questa colonna sonora, Roberto. Beh, certo, ricordiamo che Scorsese è un grande studioso e amante appassionato di rock and roll, di rock, ricordiamo i film che ha fatto, no? Su Peter Gabriel, sulla Hilo Country, su The Blues, su Sinatra, su Eric Clapton, su George Harrison, poi sta facendo questo ciclo televisivo Vinyl dedicato al disco, ai dischi degli anni 50, 60 e 70, quindi è un intenditore. Tra l'altro Woodstock lo ha visto come aiuto regista e come capo della seconda unità, quindi tra l'altro altro film da vedere oltre Amy, ricordate Genesis in questi giorni, perché è un film stupendo, straordinario, e che in qualche modo, insomma, Scorsese è il Genesis del cinema, no? Perché i suoi film sono delle esibizioni rock, no? Cioè lui riesce a comunicare con il pubblico in una maniera così emotiva, così forte, così sottotraccia, che sembra proprio una performance rockettara. Quindi sì, in qualche modo lo ha incorporato il rock. E tra l'altro in questo film, che è dedicato agli italoamericani, la cosa più bella è che metà colonna sonora sono quasi tutti gruppi di donne doo-wop nere. Il suo rapporto è sempre quello molto conflittuale, no? Tra quello che racconta e quello che si sente, anche se a volte invece ci sono proprio situazioni molto diciamo precise. Per esempio, la scena del bambino seppo di droga nel passeggino, no? Sì. Ecco, in quel caso lui proprio utilizza una canzone fantastica sulla droga, che sembra proprio, no, dare la spinta alla scena. E quindi, insomma, ci sono rapporti di conflitto e rapporti anche di raddoppiamento emotivo, e la cosa che più interessa è questo. Tra l'altro volevo ricordare quello che diceva Michael Powell, il regista inglese dei film di Scorsese, no? Che è molto attuale come battuta. Dice: vedere il film di Scorsese sembra assistere proprio a un duetto di grande classe tra due tennisti, no? Questi bellissimi dialoghi, Joe Pesci poi in questo film ne fa di fantastici con De Niro, no? Battuta contro battuta, risposta, ironia, sì, eccetera. Sì, e sì, qui si capisce la sua provenienza anomala, no? Rispetto al cinema hollywoodiano. Cioè, lui studia alla New York University la Nouvelle Vague. Sì. Addirittura il film comincia con una citazione da Jules Gilles, no? La voce fuori campo che racconta, e poi utilizza tutta una serie di strumenti come il fermo immagine per dare tutte le tappe, diciamo, della vita di questo gangster, e come proprio fa la Nouvelle Vague quando vuole improvvisamente cambiare registro, arrivare con una nota ironica o satirica o sarcastica. E questo poi Scorsese nelle sue memorie dice sempre che è stato un po' Cervantes a insegnargli, più che la Nouvelle Vague stessa, no? La grande letteratura, Cervantes in effetti ha utilizzato tutta una serie di escamotage narrativi molto moderni che lui utilizza, che appunto il ritorno indietro, il occuparsi della storia, il criticare i personaggi che sta inquadrando, eccetera. Tra l'altro stavo ripensando a questa notazione che hai fatto rispetto alle cantanti afroamericane presenti in colonna sonora, e ricordo che durante il film gli italoamericani nella ricostruzione degli anni 50 spesso rivolgendosi agli afroamericani li chiamavano Negroes. Certo, beh, Negroes non è un'offesa. Negro è utilizzato anche dai teorici di politici della sinistra americana. Per esempio, ricordo James ha scritto dei libri contro Negroes, e nigger, la parolaccia, no? Che indica il nero in maniera offensiva. E devo dire, appunto, beh, ricordiamo che ci sono proprio, che ne so, The Crystals, no? The Chantels, gli Earthtones, tutti i gruppi. Ma prima sì, abbiamo sentito Moongloss. Volevo ricordare che le parole di quella canzone sono di Alan Freed, che è stato un leggendario DJ della radio americana e che è stato quello che ha lanciato il rock and roll in tutta nella cultura americana, quindi era molto interessante, diciamo, notarlo. E effettivamente, se ci pensate bene, dal 55 al 79, no? Il film ha questo sviluppo, si utilizzano proprio le canzoni che i mafiosi potevano sentire o ascoltare, sì, a jukebox, alla radio. E quindi queste canzoni apparentemente demodé, no? Tipo quelle di Giuseppe Di Stefano, che canta la canzone su Firenze, poi parla di amore Mariù, eccetera. È buffo, perché nei jukebox di quell'epoca si poteva benissimo trovare Elvis Presley con le vecchie canzoni degli anni 40 addirittura, no? Quindi c'è anche Al Jolson. È una specie di storia di ricostruzione dell'immaginario musicale dagli anni 50 al 79, tant'è che lui voleva utilizzare una canzone dei Rolling Stone del 1980 per una scena, e ha dovuto appunto rinunciare, voleva usare She Was Not dell'80 nella scena famosa dove De Niro, Jimmy al bar si guarda intorno, decide che ucciderà tutti quelli che stanno lì attorno a lui e invece ha usato Sunshine of Love di Cream proprio perché era del 79. Sì. Senti, ripensando, stavo adesso tornando alla filmografia di Martin Scorsese. Io ho rivisto il film qualche giorno fa, a 25 anni di distanza dalla prima volta, e l'ho apprezzato anche di più della prima. E stavo pensando che rispetto al suo percorso cinematografico, era da Toro Scatenato che, nonostante poi siano passati poi 10 anni e altri vari film, che non raggiungeva però quei livelli. Beh, ricordiamo che è stato Oscar come migliore film. Lui non ha mai vinto l'Oscar, credo, sì, come migliore regista, però il film ebbe 3 Oscar, quel migliore film, quindi Irving Winkler il produttore, poi Joe Pesci e Lorraine Bracco l'attrice che fa la moglie del protagonista di Ray Liotta. E devo dire, insomma, secondo me, assieme a Mean Street e All'età dell'innocenza, è il vertice della capacità registico immaginaria di De Niro, sicuramente con meno sfoggio, diciamo, rispetto, sì, a Toro Scatenato, ma sicuramente con più forza interiore. Non riesce a fare come in quella famosa scena di quando Harry Ray Liotta ripone la pistola nella tasca e si sente Memo to Turner, no? Il pezzo di slide guitar di Roy Cooder, ecco, che poi è tratto dal film di Mick Jagger, e lui utilizza in questo film proprio la tecnica dello scivolare sul manubrio, sul manico della chitarra, no? Per fare quell'effetto glissando. Riesce col cinema a, diciamo, alzare le note, abbassare le note attraverso questa sua capacità incredibile di entrare nella testa dei personaggi, nella testa del pubblico, e soprattutto di farci vivere questo senso di colpa gigantesco, no? Di questo protagonista che ha voluto fin da piccolo essere, il suo desiderio era diventare un gangster perché vedeva come loro riuscivano a vivere bene, ad essere felici nella vita, e poi alla fine ha dei sensi di colpa mostruosi, ma non perché non rifarebbe il gangster, ma semplicemente perché ha tradito i gangster, cioè, non per i crimini che ha commesso, ma per il grande crimine che è quello di tradire qualche cosa che faceva la felicità di questa gente, che era quella di essere tutti per uno per tutti. Apro parentesi, prima citavi l'interpretazione di Joe Pesci, alla quale abbiamo dedicato uno degli spezzoni, quello arcinoto di Buffo. Senti, volevo... È andato benissimo, pare che il gangster vero ha detto che Joe Pesci azzecca quel personaggio al 99%. Rispetto al cinema di Martin Scorsese, Roberto, volevo chiederti, ecco, complessivamente la tua idea rispetto al suo lavoro. Rispetto al lavoro di Scorsese, beh, è stato intanto uno di questi registi, appunto, dicevo prima, che della generazione che viene dalle scuole di cinema e che quindi sottopone tutta la cultura di Hollywood, che conosce in una maniera pazzesca, al vaglio dell'altro cinema. Cioè Scorsese è l'unico cineasta americano che conosce il cinema inglese, il cinema italiano, il cinema del terzo mondo, diciamo, usiamo questa parolaccia, del terzo mondo, diciamo, dei tre mondi, degli altri tre mondi, meglio forse di quello americano. Questa è una specie di shock, no? Lui riesce a portare, a travasare la grande cultura mondiale dentro il cinema, assieme ai suoi amici De Palma, Lucas, Spielberg, Coppola, riescono a fare una rivoluzione culturale quasi coetanea a quella di Mao rispetto a Hollywood, anche se poi vengono più o meno abbastanza distrutti, cioè non riusciranno a essere i potenti poteri del cinema americano, li faranno un po' fuori tutti quelli di questa generazione, però pur mantenendo appunto dei loro livelli di autonomia altissimi, Scorsese forse assieme a Lucas e Spielberg più di altri, e anche forse Woody Allen, ma insomma portano questa magnifica capacità di portare letteratura e sguardo pittorico e musicale, appunto, diverso da quello americano, per cui il cinema di Hollywood si arricchisce in una maniera potente, per cui sono veramente dei... Proviamo a richiamarlo. Adesso. Oh, E avete appena ascoltato Sunshine of Your Love del famoso trio composto da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, ovvero i Cream. Ecco Roberto, li avevi citati prima, si è interrotta un po' bruscamente la comunicazione mentre stavi parlando, non so se puoi recuperare il filo. Non mi ricordo dove che si è interrotto, comunque il filo era che forse Scorsese rappresenta rispetto a questa generazione della New Hollywood degli anni 70, quella appunto che è nata attraverso quella grande rivoluzione anche musicale del rock che lui ha seguito in Woodstock, proprio questo fare cinema utilizzando appunto la grande tradizione europea, il cinema neorealista, il cinema della Nouvelle Vague eccetera, soprattutto in che cosa? Nel rapporto documentarismo strutture di finzione, capacità di interagire tra queste due cose, soprattutto quello che è stato il grande valore, no, delle grandi rivoluzioni degli anni 60 europee, e cioè al di là delle strutture ideologiche, delle costrizioni teoriche, riaffermare con profondità la centralità della soggettività desiderante, quindi di una nuova concezione dell'individuo svincolato non solo appunto dalle ideologie dei partiti della sinistra, ma anche da tutte le attrezzature teorico morali, etiche della chiesa, della famiglia, no? E riuscire a fondare un proprio percorso etico profondamente rivoluzionario in questo senso. Quindi è lì che il rapporto della mia generazione con Scorsese ovviamente è stato proprio di contiguità totale, mio e di quelli della mia generazione, per cui considero il cinema di Martin Scorsese il mio cinema. E io ti volevo ringraziare, Roberto, leggo sempre con passione i tuoi pezzi sul Manifesto, è stato bello ascoltarti e sentirti parlare, e devo condividere con te la sensazione che è nata in me dopo aver sentito questa tua grande sapienza. Mi sento veramente inutile e forse non continuerò la trasmissione per oggi. Ma io leggevo tutto, è nato in me un sentimento di depressione fortissimo, dal quale spero riuscirò a riprendermi, e comunque una canzone della colonna sonora di Wise Guys, perché così doveva intitolare Wise Guys. Senti Roberto, in chiusura un'idea rispetto agli ultimi lavori di Scorsese, secondo te che direzione sta prendendo? Ma lui adesso sta lavorando come sempre a otto progetti contemporaneamente, perché è una specie di forza della natura. Mi interessa moltissimo a proposito il fatto che sta lavorando su Sinatra, che è un cantante che in questo film non c'entra niente, e anche questo mi piace abbastanza, no? Anche perché collegare Sinatra con la mafia è una sciocchezza che si è spesso ripetuta in una maniera un po' irritante, e quindi ha fatto benissimo Elina. Quindi lui sta lavorando una serie di cose, tra l'altro aspettiamo questo secondo capitolo della sua storia nel cinema italiano, che dovrebbe essere molto importante, perché parlerà di molti autori che sono considerati non importantissimi, che invece sono stati importantissimi, di Trangeli, Castellani eccetera. Quindi anche questa è una delle altre grandi attese, e poi questo continuare a occuparsi della musica, perché in qualche modo il suo cinema, come la musica, no? È qualcosa di concreto e anche molto astratto, visibile e anche molto invisibile, e mi piace molto questa capacità di fare dei poemi emozionali fortissimi, quindi aspettiamo e speriamo che ce ne siano tanti di altri film di Scorsese. Bene, allora noi ti ringraziamo, un abbraccio Roberto, e ci sentiamo magari per una delle prossime puntate sia di Tracce di Cinema che di Visionari. Volentieri, ciao. A presto, ciao Roberto. Ma non si incazza di brutto! Che cornuto! Minchia, se fosse stato grande e grosso! Sì, se guarda il buco, è proprio buffo! E come sarebbe buffo? Come sarebbe? Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo! Perché? Per via di come parlo, o cosa? No, è che sei buffo. Insomma, è il modo come racconti le storie. Buffo come? Che ci trovi di buffo? Tommy, non hai capito, lui vuole... No, aspetta. È Cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come? Che sei buffo, tutto qua. No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, eh? Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo? Per come racconti le storie, capisci? No, no, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi, che c'è di buffo? Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, at the age of five, my mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. Boy. Manish Boy di Muddy Waters, ovviamente. E Manish Boy nasce come risposta ironica all'altrettanto famosa canzone I'm a Man di Bo Diddley, che il quale si era ispirato a sua volta ad Uchi Kuchi Man di Waters Dixon. E effettivamente le somiglianze a livello musicale sono tante, c'è questo accordo di armonica e chitarra ripetuto, è sempre lo stesso accordo ripetuto, e il testo, come gli altri due brani, parla di un ragazzino che cresce e diventa uomo e che esalta le proprie qualità anche con appellativi uguali agli altri brani. È bellissima la storia di Muddy Waters, un bambino nero che giocava sulle rive del Mississippi. Potrebbe iniziare così la biografia di questo meraviglioso interprete, come una favola. E in fondo la sua vita sembrava avere la struttura narrativa tipica delle favole, perché McKinley è un bimbo orfano che viveva con la nonna, passava le giornate a giocare nella fanghiglia del Mississippi, tanto che ben presto da quel fango prese pure il nome. Infatti, che Muddy Waters vuol dire proprio acque torbide. Sì, glielo diede la nonna. McKinley non è molto conosciuto, ma tutti conoscono il nome appunto di Muddy Waters, re del Chicago Blues. Diventato adulto, avrebbe inciso per oltre mezzo secolo dei pezzi straordinari da cui hanno attinto i più grandi artisti della musica rock e non solo. Ad esempio Rolling Stones si chiama così grazie a un suo brano. Esattamente. Molti pezzi interpretati e portati al successo da lui sono stati scritti da grandi bluesmen, su tutti Willie Dixon, sono stati poi rincisi da innumerevoli artisti come Elvis Presley, Etta James, i New York Dolls, Cyndi Lauper, una carriera straordinaria, un grandissimo interprete. Fu lui che introdusse l'uso massiccio della chitarra elettrica, fu lui uno dei primi. Un grande innovatore, sì. Esatto, e fece un concerto nel 58 in Inghilterra, e dove usò appunto parecchio la chitarra elettrica, e si dice che probabilmente ha ispirato tantissimi musicisti poi inglesi rock che sono venuti dopo. E questo brano lo volevamo dedicare a Roseanne, una nostra ascoltatrice, era ovviamente Il cielo in una stanza di Mina. Io invece lo dedico a Roberto Silvestri. Come diceva appunto Roberto Silvestri, c'è una grande ironia anche in questo film, data anche dai pezzi che Scorsese ha scelto, e questo infatti accompagna la mitica scena della presentazione dei ragazzi nel nightclub. E stiamo sempre ascoltando la colonna sonora di del film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, e questa era My Way nella versione cantata da Sid Vicious dei Sex Pistols. E siamo in dirittura di arrivo, ragazzi, quindi io ricordo le coordinate per sottoscrivere alla radio e per sostenere questa radio, che è di chi se l'ascolta, come dice lo spottino, CCCP